Funziona? Bene, infatti mi sembrava che si sentisse un po'. Ecco, sarà lui a raccontarci alcuni dettagli per quello che riguarda il libro, la sua formazione, la sua nascita, il suo significato e lo scopo che secondo lui può avere una pubblicazione di questo genere nella nostra realtà. Io è un libro che ho letto volentieri. Parte da una raccolta di articoli, se non sbaglio. Non dimentichiamo che Riccardo Dello Sbarba, prima che presidente del Consiglio provinciale, è o è stato giornalista. Ci dirà lui se è o è stato. E quindi ha affrontato la realtà altoatesina con gli occhi del giornalista, cioè con gli occhi di colui che indaga le situazioni e cerca di comunicarle nel modo più sintetico, se vogliamo, possibile. E mi pare che questi articoli raccolti in questo volume rappresentano in un certo senso dei passi di avvicinamento dello Sbarba alla realtà altoatesina, cioè non un guardare la realtà con l'atteggiamento di chi ha già capito tutto e che vuole semplicemente esprimere un giudizio o dire agli altri cosa bisogna fare, ma proprio l'atteggiamento di chi passo passo si avvicina, si guarda intorno, scopre cose che prima non conosceva. Ed ecco, uno dei motivi per cui il libro mi è piaciuto è proprio questo approccio, se vogliamo, che conduce ad un'immagine della nostra terra, Alto Adige o Sud Tirolo, come di una realtà complessa, una realtà difficile da descrivere in primo luogo, anche se ognuno di noi forse nel riflettere scopre che noi stessi siamo tentati di dare una descrizione abbastanza semplice della nostra realtà, come dire, siamo convinti di conoscerla, però poi quando si gira l'angolo, quando si conoscono altre persone, si arriva a un nuovo paese della nostra terra, eccetera, si conosce qualche frammento della sua storia. Spesso, almeno questa è la mia esperienza, ci si rende conto che viviamo in una realtà che non conosciamo, che facciamo molta fatica a descrivere. Ecco, quindi il fatto di descriverla, tra virgolette, a frammenti successivi, penso che sia onesto, ecco, da parte di Dello Sbarba, del giornalista e di chi vuole parlare di questa terra. È una terra, dicevo, non solo difficile da descrivere, ma anche difficile da nominare. Qual è il nome di questa terra? Potremmo stare qui a lungo a discuterne per settimane, forse, no? Probabilmente poi tutti i nomi che verrebbero fuori sarebbero giusti, avrebbero un senso, no? Ecco, però il nostro errore fondamentale molto spesso è quello di voler dare un nome a questa terra. Ecco, e in questo modo chiudere il discorso, mentre i discorsi sarebbero da aprire. A me pare che questi capitoli, questi articoli, aprono spesso altrettanti discorsi, non li chiudono. Dicevo, noi siamo spesso tentati di descrivere questa terra in maniera semplicistica. È una terra in cui convivono tre gruppi linguistici. È un'affermazione molto vera e molto falsa allo stesso tempo, perché in realtà inquadrare, come siamo sempre tentati di fare ogni giorno, la nostra realtà secondo le categorie italiano, tedesco, ladino, è un tradire la realtà in qualche modo, non è un descriverla. Certo, è un comodo modo molto spesso per togliersi di torno determinati problemi, però molto spesso non ha nulla a che vedere con la realtà. Questo si vede già nelle prime pagine del libro, secondo me, quando chi l'ha già letto e lo conosce, ci sono dei quadri come di vita, di persone, di famiglie, eccetera, dai quali emergono già tutta una serie di contraddizioni. È difficile usare le nostre categorie tradizionali per descrivere questa realtà. Si comincia già con la situazione dei contadini di alta montagna e come questa situazione in parte è rimasta inalterata nel corso di 30 anni, direi, in parte è cambiata completamente. Quindi una realtà che per conservare se stessa in realtà cambia completamente, no? Questo è un po' uno specchio, diciamo, una metafora della realtà altoatesina. Penso non a caso dello Sbarba ha scelto questa immagine per introdurre il suo libro. Così come troviamo mille contraddizioni nella storia chiamiamoli, attivisti degli anni 60, anche qui ci manca il nome condiviso per descrivere quella situazione. Anche questo è un capitolo della nostra storia, fatto di molti capitoli, di molte persone, molto spesso appunto legato a singole vite di singole persone. L'altra immagine bella che mi pare tra le prime pagine di questo libro è quella del fiume. Si parla della realtà di Vadena, molto legata appunto alla navigazione del fiume Adige. E qui, anche qui, secondo me, emergono le contraddizioni della nostra terra, della nostra storia. Una terra, una storia che noi crediamo definita una volta per tutte, e invece poi ci accorgiamo che i punti di riferimento fondamentali in realtà nel corso della storia cambiano. Così è per esempio dei confini, non i confini politici, quelli sappiamo che cambiano, sono cambiati, forse cambieranno, ma proprio i confini come punti di riferimento, cioè come linee più o meno immaginarie, più o meno reali, che dividono le regioni tra loro e allo stesso tempo le mettono in comunicazione. Oggi a nessuno verrebbe in mente di pensare all'Adige o ad un fiume come a un confine. È una percezione assolutamente lontana dal nostro modo di pensare. Mentre un tempo l'Adige era proprio un confine, o altri fiumi sono stati un confine vero e proprio, anche amministrativo, religioso, perché un fiume era molto più difficile da varcare che non un passo alpino. Per lunghi secoli la valle dell'Adige non è stata altro che un'immensa palude, un luogo insidioso, non un fiorente giardino come è ai giorni nostri. Questa è una realtà che abbiamo noi oggi, un'immagine che abbiamo noi oggi, ma per esempio nell'Ottocento, nel Settecento, non c'era affatto questa immagine. Probabilmente la coscienza dell'uomo altoatesinus del Settecento era molto più simile a quella dei suoi predecessori della preistoria che non della nostra oggi. Ecco, quindi noi oggi consideriamo lo spartiacque come una frontiera invalicabile. In realtà, come dimostra del resto il nostro altoatesino più illustre al mondo, Ötzi, lo spartiacque non è mai stato un limite invalicabile. Era più difficile varcare il fiume. Ecco, questo per dire le contraddizioni che emergono da questi primi capitoli. In un articolo che ho scritto l'anno scorso, ho dato a Riccardo Dello Sbarba del dietrologo, che di solito è una parolaccia, no? Però specificavo che lo considero un dietrologo, nel senso che ritengo che lui abbia la capacità di vedere dietro le cose, al di là delle cose, al di là delle apparenze. Questo si ricollega un po' con, diciamo, questa sua caratteristica che è stata un po' sbandierata, insomma, in questi ultimi mesi, proprio già prima di questo libro, ma anche in occasione della pubblicazione, cioè questo suo venire da fuori, questo suo essere etrusco, no? Non autoctono, e quindi, ok, a parte il fatto che molti di noi che siamo qui probabilmente siamo gente che viene da fuori, però effettivamente, diciamo, è una cosa sicuramente che fa parte della nostra identità comune, se esiste un'identità comune. Ecco, io, siccome mi rendo conto di aver già parlato molto, e poi lui ha anche degli appuntamenti importanti dopo, no? Allora io mi fermerei con questa introduzione a questo punto, però partirei, gli darei la parola a Riccardo Dello Sbarba proprio con questo primo stimolo, e cioè, secondo te, qual è il vantaggio o quali sono i limiti, qual è la situazione particolare di qualcuno che venendo da fuori si mette a guardare la situazione altoatesina? Devo per forza usare il microfono? Ah, però mi alzo perché. Allora, buonasera a tutte e a tutti, vi ringrazio molto di essere venuti, ringrazio Antonio Lampis, Sepp Kustacz, il dottor Angelucci che difende il nostro territorio e tutti voi e tutte voi. Sì, io sono arrivato nel 1988, quindi quasi 20 anni fa, per motivi di lavoro, e di affetto. E mi sono trovato bene. Ho trovato tante persone che mi hanno raccontato questa terra. Uno di questi è Paolo Valente. Io mi ricordo quando ero giornalista prima dell'Alto Adige e poi all'FF, di aver passato serate a far finta di intervistarlo, perché poi nell'intervista veniva fuori poco. Ma in realtà, diciamo, mi facevo raccontare questa terra. E appunto questo libro, diciamo, è il risultato di 15 anni di lavoro giornalistico, di inchiesta e soprattutto di quella parte di lavoro giornalistico che ho avuto la fortuna di fare in un settimanale di un'altra lingua, di lingua tedesca, FF, che aveva aperto con me, diciamo, un servizio alla settimana in italiano. E quindi, come dire, sono sempre stato di fuori, no? Sono venuto qui che ero di fuori. Ho lavorato nella FF come italiano, l'unico italiano, no? È un'immersione pazzesca. Infatti, ho dato il patentino A subito, l'ho preso dopo i primi 3-4 anni che facevo questa immersione. Ripeto due volte la parola, perché è l'unico modo per imparare la lingua, quella di usarla, doverla usare. Se non la usi non funziona la macchina, se non la usi non va in tipografia il pezzo, no? Ecco. Allora, questo è un modo per imparare la lingua. Quindi questo modo, diciamo così, di fuori. Poi ho fatto anche quello che raccontava altri, per esempio, quando ero direttore del Mattino scrivevo ogni domenica un editoriale sul Mattino, ma l'importante è che questo editoriale veniva pubblicato sull'Adige di Trento. L'Adige di Trento naturalmente ne vende, cioè diciamo è l'Alto Adige più il Dolomite messi insieme, diciamo così, no? Quindi, e io raccontavo ai trentini cosa succedeva qua, no? Quindi ho sempre fatto questo lavoro così, di essere un estraneo, raccontare ad altri, eccetera. E il mio amico ed ex direttore della FF, Florian Kronbichler, nella sua introduzione ha detto che come dire, ho scelto la chiave dell'inviato, perché quello che viene da fuori e che racconta è l'inviato, no? Nei giornali. E c'è tutta una tecnica per fare l'inviato. Tu devi attraversare il territorio, vai, vedi, racconta, insomma, no? Però devi vivere, ecco, vai, vivi e racconta. Adesso gli inviati spesso stanno in un albergo e guardano la televisione e poi scrivono che dice la televisione del paese ospitante, ma in realtà il vero inviato è quello che convive, quello che prende gli autobus, che prende i treni, che si ferma nei bar, eccetera, eccetera, no? E poi racconta a chi? A quelli lontani. Qui invece c'era un fatto diverso, cioè che io raccontavo a quelli di qui, cioè facevo l'inviato per quelli di qui, no? E lo facevo per in un settimanale di lingua tedesca, e scrivevo, non mi sono mai illuso di portare tanti lettori italiani nel settimanale di lingua tedesca, e quindi io scrivevo, il giornale vendeva 11-10 mila copie tutte le settimane, scrivevo per persone di lingua tedesca. Ecco, tutto questo gioco, diciamo, di contrabbando sulla frontiera, no? È stato un gioco, secondo me, che ha dato un risultato che qualche valore lo ha, cioè ha dato un racconto in italiano di questa terra. Lo dico perché il dare vita a un racconto in italiano di questa terra, che sembra, diciamo, poi, diciamo, la storia ufficiale è raccontata molto in tedesco, no? E spesso i racconti in italiano sono traduzioni dal tedesco, no? Ecco, invece dar vita a un linguaggio italiano di racconto di questa terra, mi fa piacere dichiararlo qui, perché credo sia anche il progetto di Paolo e di tanti altri autori qui di lingua italiana. Questo gioco, diciamo, mi ha consentito di capire qualcosa, cioè io dovevo capire. No, per me si vive per capire, cioè il senso della vita, se uno non crede nell'aldilà, è un senso di costruzione di un percorso di conoscenza, di esperienza del mondo, no? Come dice Dante nel canto su Ulisse, no? L'esperienza, non neghiamoci l'esperienza di retro al sol, no? Andare dietro al sole, l'esperienza, cioè non è solo è fare esperienza. Ecco, io ho cercato di fare questa esperienza, perché la vita è questa, e il giornalismo, insomma, ci consente di questo. Il giornalismo, a patto che, come diceva un grande inviato, che si chiama Kapuscinski, che è morto un anno e qualche cosa poco fa, lui diceva, però un giornalista, un inviato, deve amare quelli di cui parla. Questa è una grande discriminante, perché spesso io leggo articoli, interviste, eccetera, di colleghi che distruggono l'intervistato, no? Cioè che si vede lì che vanno lì e gli fanno una trappola, no? E poi quello casca e fa la figura dell'imbecille. Io mi sono sempre pensato che o amavo quello che mi stava di fronte, la situazione, oppure non la potevo convivere. E se non la potevo convivere, non la potevo raccontare. Se io non amavo la situazione o la persona, non ne parlavo. Questa è la regola che mi sono dato. Per cui, diciamo, soprattutto nelle storie tratte dal settimanale, io ho poi preso le cose che mi piacevano di più, ce ne sarebbero state tante altre, e le ho riscritte e riattualizzate, per cui sono una serie di capitoli che oggi, diciamo, sono tutti in parte riscritti, ma soprattutto quando lavoravo nel settimanale avevo molto tempo, perché una trappola dell'informazione oggi è la rapidità. Se tu con pochi giornalisti devi fare un giornale di 56 pagine o 52 o 48 e ogni giorno devi sfornare, è chiaro che i tempi ti si accorciano, no? E quindi hai meno tempo di fare la ricerca. Io nel settimanale avevo tempo di fare la ricerca, avevo tempo di stare lì, di stare seduto nella stube o nella cucina di qualcuno e parlare, conoscere, sentire gli odori, non per telefono mai, perché l'odore, la faccia di quello che parla è importante. E quindi così si può dire qualche verità o qualche verità che uno ritiene sia tale. Ecco, a patto di convivere, cioè di vivere l'esperienza, Io penso che l'arrivo dall'esterno, che poi è l'esperienza di moltissime persone di lingua italiana qui, molti sono nati, ma forse i genitori sono arrivati, eccetera, no? Ci sono anche delle... Questa è una bella esperienza, perché se c'è questo, almeno per me la chiave è stata questa, cioè quella di non essere cinico, non essere, diciamo, non essere prepotente, ma farmi attraversare, diciamo, dal nuovo, dalle emozioni, cercare anche di, come dire, dire la mia, però, diciamo, dopo aver attraversato il territorio o le storie delle persone. E ogni storia, naturalmente, ha un senso. C'è una morale della favola, anche se è vietato nel giornalismo scrivere la morale della favola, per cui la morale ognuno se la intende da solo. Questa morale è presentata attraverso delle biografie. Ci sono una serie di storie, qui la maggior parte sono storie di persone. Cioè, sono storie di persone. Dove succede qualcosa... E poi naturalmente il lettore è libero di capirci quello che vuole da questo che succede qualcosa. Per me quello che io ho sempre trasmesso, ho sempre, diciamo, è un punto di vista. Il punto di vista è un punto di vista del 100%, no? Perché una delle cose che a me piacciono meno è l'ottica della proporzionale. Non la proporzionale come tecnica, diciamo, per amministrare le cose. Ormai abbiamo visto che anche, diciamo, la Volkspartei ritiene che il dichiararsi italiano, tedesco, ladino sia un gioco, no? Una convenzione. L'Artioli è sbagliata perché è dichiarata italiana, ma basta che al prossimo censimento si dichiari tedesca e va bene e si può mettere in lista. Con questo è la dichiarazione che col sangue e col suolo la dichiarazione linguistica non ha niente a che fare. È un gioco, una convenzione, si può anche variare, no? Questo è un bel passo avanti. Ma non accettare la logica delle percentuali. Io, sapete, appunto, venendo dalla Toscana, sono sempre stato abituato a considerarmi un cittadino al 100%, ovunque stavo, no? Sono arrivato qui, a parte ho scoperto, perché se mi chiedevate 30 anni fa, tu come sei? Toscano. Poi qua ho cominciato a capire che invece era ammessa la risposta italiano, no? Cosa io non avevo mai pensato che ero italiano, perché... Cioè, come il bianco che non pensa essere bianco, quando incontra il rosso dice, beh, forse io sono un colore diverso, ma non avevo mai pensato ad essere italiano, non mi era neanche mai passato nell'anticamera del cervello, semmai mi definivo, ecco, qui ho scoperto che ero italiano, ma non volevo rimanere prigioniero di questa percentuale, perché poi ho capito che l'italiano era il 25-26%, mi sembrava poco, per avere una cittadinanza intera, insomma, un quarto di cittadinanza non mi andava bene. E quindi, naturalmente questo lo dico scherzando, ma c'è tutta una teoria, uno dei primi amici e persone, insieme a Paolo e altri, che ho incontrato, si chiamava Alexander Lang, che quindi aveva, ma ha trasmesso questa visione, io ho sempre pensato che con il mio sguardo potevo attraversare ogni aspetto e dovevo attraversare ogni aspetto di questa realtà. Di solito ai giornalisti si dice tu devi sentire sempre l'altra campana, no? Però se leggete i giornali, diciamo, o quello di lingua tedesca o quello di lingua italiana, spesso sentono le diverse campane, ma tutte italiane nei giornali di lingua italiana, o le diverse campane, ma tutte tedesche nei giornali di lingua tedesca, a meno che non si chiami Durnwalder, a meno che non ci siano le punte sì, vengano sentite, perché loro sono quelli, gli ambasciatori dell'altro gruppo, no? Ma le persone, le storie delle persone, di solito trovate due mondi diversi. Io appunto ho cercato invece di esercitare una cittadinanza al 100%, diciamo, cioè sentendomi cittadino di questa terra, scrivendo storie di provincia o di città, eccetera, e cercando però, naturalmente, umilmente di farmi attraversare. Ecco, questo per quanto riguarda il modo di stare qui. Certo, quando Paolo dice uno che viene da fuori, sì, beh, è banale, lo sapete, cioè noi che veniamo da fuori, che non siamo nati qui, siamo più leggeri, no? Cioè siamo meno, diciamo, meno, meno vincolati alla storia di questa terra, siamo anche più ingenui, poi magari il problema è che poi ci rendiamo conto, e allora io ho questo un rapporto strano con questo rendermi conto, perché a volte vedo che mi rendo conto e mi faccio dei brutti pensieri, allora è meglio essere un po' ingenui, io credo che è meglio essere un po' ingenui, io darei il consiglio a tutti di sentirsi come appena arrivati, no? Ripulire ogni tanto la memoria e ripartire da zero e non credere, cioè e non adattarsi a certi sistemi. Ecco, io questa cosa dell'arrivare e di vivere l'ho voluta dire in una storia che adesso vi leggo, perché di solito uno che scrive le cose meglio la scritta, non è che le dice, se no diventava un oratore, no? Questa storia. Allora, nella FF si facevano lunghe discussioni di redazione il mercoledì mattina e io ero l'unico italiano e si discuteva quale storia scrivere in italiano. Non è che io scrivevo quello che proponevo, a volte scrivevo, mi veniva assegnato quello che proponeva qualcun altro, perché noi non volevamo fare l'angolo dell'italiano, di italiani check, noi non volevamo fare l'angolo dell'italiano, come l'angolo dei bambini e l'angolo del cruciverba. Noi, diceva sempre Florian, quando era direttore, tu musst die zweite Titelgeschichte machen. Cioè, tu devi fare la seconda storia di copertina, la seconda storia importante. Cioè, nella tua storia, i lettori di lingua tedesca devono sapere che c'è uno scopo per scrivere in italiano. Vuol dire che tu la sai raccontare meglio, che bisogna raccontarla in italiano, oppure che è una provocazione raccontarla in italiano, no? Raccontare la storia della moglie di Luis Amplatz in italiano e raccontare la moglie, non Luis Amplatz, oppure raccontare Magnago attraverso una pianta che ha nel giardino, il Calicanthus, che è una pianta che fiorisce proprio nel momento in cui Magnago ha il suo compleanno. Ecco, io ho cercato queste chiavi qui. Allora, il giorno in cui a Termeno successe la guerra dei cartelli, non so se ve lo ricordate, ci fu un sindaco che per far carriera e per mettersi un po' in evidenza e finì un po' sui giornali, decise di togliere tutte le edizioni tedesche sui cartelli stradali, sulle vie, ma non solo tolse, diciamo, via Mulino e tolse quel mulino, ma tolse anche via, no? Tolse anche via, anche piazza, eccetera. Successe un gran... naturalmente Alleanza Nazionale intervenne, mi ricordo Zicker andò a riappiccicare i cartelli con lo scotch. Insomma, una cosa. Allora, naturalmente, erano quei momenti in cui ci vuole le truppe dell'ONU, no? A mettersi nel mezzo, a cercare di riportare. E noi ci sentivamo un po' la truppa dell'ONU, perché eravamo una redazione, diciamo, mista. Beh, insomma, accidenti, se non scriviamo stavolta. E però, noi eravamo per il bilinguismo, come redazione, no? Assolutamente, nella toponomastia, nell'odonomastia, tanto un nome in più, il problema è non fare un nome in meno, ma un nome in più che a chi dà fastidio, no? Ecco, però bisognava far capire a quelli di Termeno sta cosa, cercare di fargliela capire in italiano, cioè cercare di parlare di loro in italiano, in modo tale da mettergli l'italiano davanti al naso, ma facendolela capire non in modo arrogante, non c'era già Urzì che andava a riattaccare cartelli con lo scotch, non potevo andare io a attaccare cartelli metaforicamente con lo scotch. E allora la ricerca nel paese, durata una settimana, portò alla nascita di questa storia che si intitola Nino che mangiò il lupo. Adesso ve la leggo. Ah, alla fine c'è una specie di gag, io devo tirare su un cartello e farvi vedere una cosa, perché funziona se si legge e non se si dice. Allora vi faccio leggere la cosa che va letta. Allora, Termeno, la guerra della toponomastica, vista da un carabiniere italiano che gioca a vatten e tifa SV Tramin. È domenica mattina e il carabiniere in pensione, Nino De Santis, sorseggia un Campari al caffè Splatz, godendosi l'ultimo sole d'ottobre. Che quella lì davanti si chiami Piazza Municipio o Rata o Splatz non cambia poi molto. L'albero c'è ancora e sotto c'è ancora la fontana, più in là la lapide ai caduti e i soliti turisti a chiedere la via per il Plattenhof. Il mondo non è crollato, anche se la targa bilingue della piazza è stata rimossa e al suo posto campeggia ora una tabella solo in tedesco. Ma gli dispiace per il paese al carabiniere in pensione Nino De Santis, questo sì. ogni mattina sua moglie apre il giornale, hai visto Nino, sussurra, anche oggi in prima pagina, ho visto Maria, ho visto, borbotta lui, che peccato, maledetta politica, perché lui Termeno in prima pagina lo vorrebbe vedere, come, ma per la squadra di calcio, osti, mica per altro, quando succede che l'ES Fautramin vince, allora il giornale se lo legge proprio di gusto. Scusate. Alla passione per la squadra Nino De Santis c'è poco da fare. Perfino quando era carabiniere andava sempre volontario di servizio alle partite. E da quando ha avuto la soddisfazione di vedere suo figlio Max diventare il cannoniere, Nino si porta sempre la tessera della società in tasca e il distintivo della squadra all'occhiello. Ovvero, il distintivo quasi sempre. Perché lui, sia chiaro, tifa anche per la Juve. E però, guarda la combinazione. Termeno e Juve hanno entrambe la maglia bianconera. I due distintivi sono identici e sulla giacca si danno il cambio senza rimorsi. Come Nino sia diventato l'italiano, nonché il carabiniere più popolare tra la gente di Termeno, questo lui non saprebbe dirlo. Sarà che ha sempre usato la sua testa e quando gli ufficiali gli dicevano che il carabiniere serve lo Stato, Nino pensava che lo Stato è il popolo e che il popolo che era toccato a lui era quel paese lì. O forse è stata quella volta. Lui era lì da poco, più di un anno. Era l'aprile del 67, una di quelle notti chiare e gelide, quando la brina scende e l'urlo delle sirene butta giù dal letto i contadini. Quella notte, con Nino di guardia in caserma, c'era un novellino, arrivato fresco fresco da Bolzano, con tanti di quei discorsi in testa, le bombe, la popolazione amica dei terroristi, stare allerta, non fidarsi. Per farla breve, il novellino sentì improvvisamente tutti i trattori del paese mettersi in moto e si precipitò in strada con la paletta rossa in mano. Si era messo in testa, alle due di quella gelida notte, di controllare a tutti la patente, il libretto e tutto il resto. Si formò una lunga colonna, immobile, i motori accesi, le facce di pietra. Nino lo sapeva, li conosceva, non avrebbero fatto storie. Gliel'aveva detto il suo predecessore appena era arrivato. Questo è un paese prettamente tedesco. La gente ama l'ordine, se sbagliano pagano la multa e non portano rancore. Così quella notte, fermi sui trattori accesi, i contadini mostravano i documenti senza fare una parola. Ma Nino, prima di essere carabiniere, era stato pure lui contadino nel suo Abruzzo. Vedeva i minuti passare e sapeva che cosa pensava quella gente, che la brina stava scendendo, che tra poco il raccolto di un anno sarebbe andato al diavolo. Al terzo trattore perquisito, divisa o non divisa, Nino agguantò per la manica il novellino. «Che ti sei messo in testa?» gli disse, scuotendolo. «Non vedi che è gente che lavora?» «Ragiona!» gli disse. «Usa il buonsenso!» E mentre glielo diceva, quello abbassò la paletta rossa e i trattori partirono e scomparvero nel buio. La gente non lo dimenticò. Che Termeno sarebbe diventato il suo mondo, il carabiniere Nino De Santis lo aveva deciso fin dal primo momento. Prima aveva passato un anno a Bolzano, ma non si era trovato bene. Lì a Termeno, invece, gli pareva tutto proprio come il suo paese, Palmoli d'Abruzzo, una manciata di case aggrappata ai monti dei Frentani, a un tiro di schioppo dalla Maiella. 3.000 abitanti, proprio come Termeno, altitudine 800 metri, stessi punti di riferimento, su e giù, awi un toi. Stessa la vita dei contadini, ma laggiù allora così dura che bisognava scappare. E per dirlo quanto è dura e da dove gli è venuta la forza per inserirsi nel nuovo paese, Nino De Santis racconta di quella volta che a Palmoli la gente mangiò carne di lupo. Era l'inverno del 56, un inverno del diavolo, la neve aveva coperto l'Appennino e Palmoli isolata era rifornita via elicottero. Fu allora che un branco di lupi affamati scese dalle montagne e assalì il paese. Sgozzò diverse bestie, arrivò a dare l'assalto perfino a una corriera. I capifamiglia uscirono armati e dopo una lunga caccia uccisero il capobranco che fu portato in paese e cucinato dal macellaio. Non è molto verde la... Tutto il paese ne mangiò, un po' per fame, un po' come un rito. Oggi, per dire che lui è abituato a tutto, Nino De Santis dice così, io che ho mangiato il lupo. Oppure così, coi lupi, se non nevica troppo, si può anche convivere. Per farsi amici a Termeno, Nino pensò di cominciare giocando a carte. Prima doveva però imparare e così si trovò di nuovo, come da piccolo, al suo paese, seduto in un angolo dello Stammtisch a guardare i giocatori, a imparare e commentare. Non durò a lungo. Il 3-7 di Palmoli, qui a Termeno, era diventato il 3-7 e, invece di parlare, si facevano i gesti. Un colpo sul tavolo invece di dire busso, una sfregatina di carta sulle altre invece di dire striscio, un lancio più lungo sul tavolo per dire volo. Ma le regole sono le stesse. Così Nino conquistò il suo posto allo Stammtisch e dal Trischetten passò al Blindwatten, che è come un'ancella di tutti i giochi italiani, dice, più il rischio. Oggi mi cercano, sussurra Felice. Lo hanno fatto entrare perfino nello Jahrgang, quello del 38. L'unico rimorso che gli resta è non aver imparato il tedesco, tranne quello del Watten. Ma è un rimorso reciproco, e gli amici a volte gli dicono: Nino, anche noi abbiamo sbagliato a non parlarti mai tedesco. Che dai cartelli del comune venga tolto l'italiano, in fondo, un po' di fastidio al Nino glielo dà. Finora tutto corrispondeva così bene, il 3-7 di Palmoli col Trischetten di Termeno, il su e il giù con l'Aui e l'Oi, il bianco e nero della Juve con quello del Tramin. Così bene che si poteva pensare perfino che il mondo sia più piccolo di quanto si pensi e gli uomini più uguali. Perché mai adesso Strasse non dovrebbe essere più via e Platz non più piazza? Ma qualche rimorso verso il Nino devono averlo anche gli altri. Si capisce dalle battute. Come l'altro giorno allo Schistand. Nino era lì col giornale in mano e in mezzo a un articolo su Termeno c'era la foto del solito cartello. Julius Fau Paier Strasse, così c'era scritto. Ciao Nino, gli ha battuto un amico sulle spalle, che il numero te lo abbiamo lasciato in italiano. Abbiamo sentito parlare della redazione in cui ha lavorato Riccardo come di una caserma dei caschi blu. Rimanendo su questo mestiere, quello del giornalista, che un po' ci accomuna in fondo, mi viene da riflettere appunto su quale è il ruolo del giornalista in una realtà come questa. Ho detto prima, descrivere la realtà, d'accordo. Da quello che hai raccontato tu, si potrebbe aggiungere forse un aspetto che magari in altre realtà non è così urgente o non appare così urgente, ed è quello di mettere in comunicazione, favorire la comunicazione all'interno di una comunità. No? Almeno così la vedo un po' io, l'informazione non solo fine a se stessa, ma proprio con un obiettivo, ecco. Forse il giornalismo da noi non ha bisogno di avere la morale alla fine, però sicuramente fa parte della nostra esperienza conoscere persone che svolgono questo mestiere con forse una morale in partenza, cioè con questo desiderio di mettere in comunicazione gruppi, persone, eccetera, che altrimenti avrebbero difficoltà a parlarsi, non solo perché non si vogliono parlare, ma proprio perché non trovano un linguaggio comune, non solo la stessa lingua, perché non è solo un problema di lingua, ma è proprio un problema di linguaggio, di concetti comuni, di visione in qualche modo comune di una certa realtà. Ecco, questo vorrei, se vuoi dirci qualcosa in base alla tua esperienza su questo argomento, cioè quanto il giornalista, la stampa in una terra come l'Alto Adige o Südtirol potrebbe fare per come dire, o è chiamato a fare, ha una missione particolare, è un qualcosa che caratterizza anche la professione del giornalista, oppure no?